immutato ormai da lontano 1977, è 0649 1750. Sul sito della radio c'è il banner specifico che va a parlare della nuova campagna di radio abbonamento, il nostro crowdfunding che durerà circa 3 mesi e al quale mi auguro che aderiscano più ascoltatori possibili, ivi compresi quelli degli spazi del sottoscritto. Prima di iniziare, doverosi saluti. Maglia che ci sta ascoltando in Umbria, Tabula Rasa in mezzo alle montagne del Trentino, Saraboia Berlino, Tiziano Zero Farinacci di Pigreco, Doriana Panico in quel di Taranto. Abbiamo un inquieto Ernesti Panico Brusati. Un saluto ad Anna qui a Roma. Immancabile la nostra Venusia Zozzetta Stramonio. In Calabria abbiamo Audio Chaos con Simona Scalise, Monum con Marcello Buffetti, Antonio Tognetti, lo abbiamo apprezzato mercoledì scorso e lo rifaremo anche tra 2 giorni. Un saluto a Pindar con Cecilia Miradoli e Max Terenzi. Tabula Rasa mi riprende subito, è giusto, Cortina d'Ampezzo è in Veneto, è vero. Mi sono confuso perché è pieno di montagne e quindi lui si è risentito subito, mai guai a confondersi con un qualche abitante del Trentino, ovviamente scherzo e lo risaluto di nuovo. A Torino Massimo Santoro, Jean-Claude Bertot in Val d'Aosta, anche lui in mezzo alle montagne. Allora, stiamo mettendo a posto le ultime cose, Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno, se non sbaglio, effettivamente. Ci sono anche stato, peraltro. E allora, cominciamo con, almeno, avremo molti minuti dedicati ad artisti italiani, cosa che sovente capita qui a Disorder, ma anche a prove tecniche di trasmissione. I più attenti e informati ricordano di Roberto Del Vecchio come un personaggio che ha affollato le scene dark wave e gothic, un certo tipo di oscurità, ormai da lontano dagli anni passati attraverso Gotica, che fu un progetto che incise addirittura con la Cold Meat Industry di Roger Karmanick. Lo ricordiamo con Les Chameaux Discordants. E poi ha intrapreso una via un po' diversa, sia individuale e sia non. Per quanto riguarda il suo progetto The Last Hour, è quello che effettivamente si distingue per la sua individualità. Siamo andati a riprendere il lavoro di esordio del lontano 2008 e che portava il suo stesso nome, The Last Hour. La foto dell'album, che si può anche vedere sul suo profilo Bandcamp, è ad appannaggio di Aima Project, sua vecchia compagna, appunto, in Les Chameaux Discordants. 2 episodi alquanto intimisti, Day Unknown e It's the Hour. Molto timido l'inizio, ma c'è. The Unknown, The Last Hour. Disorder dunque è iniziata, il Disorder di oggi 8 aprile, con due intimisti episodi appartenenti a Roberto Del Vecchio e a The Last Hour. Il primo dei tre album, se non ricordo male, di questo artista abruzzese, che personalmente mi ha sorpreso proprio in questo lavoro, perché ho sentito anche delle movenze, delle atmosfere, dei rimandi alla tradizione più affine, per esempio a Deccan Dance, e la Dark Wave è quella più riflessiva e oscura di quegli anni. Lo riprenderemo il buon The Last Hour successivamente, più in là nel tempo, per andarci ad ascoltare anche il secondo album, anche questo ormai di qualche annetto fa. Arriviamo qui nella capitale e lo facciamo con Petra von Kant, che nasconde in realtà una vecchia volpe dal nome Fabio Babini, musicista, giornalista anche in passato. Ricorderete Ritual, una bellissima rivista che uscì per qualche annetto, decisamente di settore. E qui Fabio Babini è in collaborazione con Danilo Marianelli, con Closer, il loro album di esordio, che si sviluppa su versanti anche diversi tra di loro. C'è anche qui la Dark Wave, certi rimandi alla tradizione del rock evoluto, ed anche fa capolino qua e là qualche tentazione trip hop. Lo andremo a concludere questa sera con Misia e The Sky Is Walking Out of My Mind. That's what we expected, and verify the status indicator is pointing to the lock position. And it shows locked. It's about an eighth of an inch from locked. Okay, that's great. We're ready for the ingress. Yeah, Tim, that's perfect framing right there. We like that. That's poster quality. Guys, we got good KU. We're watching sunset right along with you. 3 minutes until we get started. E sullo chef finale di Petra von Kantes saluto Mara Lasi di Calitis, Giuseppe Verticchio, grossa personalità musicale con in piedi molti progetti. Ci hanno tenuto compagnia dunque Petra von Kantes con Misia ed questa decisamente melodia alata di The Sky is Walking Out of My Mind. due brani che a me hanno riportato alla memoria anche episodi un po' alla Pink Floyd nell'uso della chitarra, e direi anche questa voce di Paola Barba che ci ha ricordato con le dute di Firenze, The Dark Side of the Moon. Ma comunque un grosso lavoro questo di questo duo romano, ricordo di Fabio Babbini e Danilo Marianelli. Anche con Closer è uscito nell'ottobre del 2023. Allora andiamo avanti e soprattutto in altri frangenti di questo lavoro, come ho già detto, si potevano anche percepire degli echi trip hop, e il trip hop invece la fa abbastanza da padrone, anche se fuso in maniera egregia anche qui ad atmosfere un po' anni 80 oscure anche queste, nel nuovo disco di Pindar. Questo è Spark on the Dark Water con la bellissima voce di Cecilia Miradoli e il supporto musicale di Max Tarenzi, peraltro anche produttore. Anche questa è una novità uscita recentemente, proprio il 22 marzo, e quindi cominciamo a conoscere questo album che già vi dico è molto molto interessante. Lo cominciamo a conoscere, già che ci terrà compagnia per molte settimane, attraverso Cold River e anche la terza traccia dal nome Home.